scusa, lo faccio per evitare discussioni, però io per legge posso piazzarla senza darmi permesso a voi. Comunque l'ho messo, sono dovuto andare in tutte le case a raccogliere le firme e uno mi ha messo l'asterisco e ha scritto accetto, tranne che se reca disturbo deve prendersi le responsabilità lui. Vabbè, ma tu non... quello non lo può pretendere, perché bisogna vedere il disturbo, capito? È difficile adesso alla TV, capito? Io qua lo uso, accendo la televisione e a me non mi crea problemi. Io sono al terzo piano, l'antenna è sul tetto, capito? Ci sono altri tre piani sopra di me. Disturbi di TVI non ne faccio, l'unico è che disturbo qualche cassa di computer, ma devono essere quelle casse vecchie senza protezione, capito? Ma solo quando magari uso troppi watt. Adesso mi sto limitando a usare i 4 watt canonici, capito? E già va bene così per modulare a Sassari, capito? E io praticamente sto usando 4 watt lo stesso, sto usando 4 watt, non di più. Molte volte, se voglio fare qualche VIX o la mattina, magari è presto, gente non usa computer perché la gente esce per fare spesa, insomma andare a lavorare, e se c'è qualcuno ogni tanto lo faccio in banda laterale, metto qualche cosina in più e poi basta, e poi la riporto ai 4 watt. Kappa, sì, ma infatti non conviene usare il lineare, cosa lo usi a fare? Qua in città si può parlare con le apparecchie omologate, addirittura si può parlare anche con un watt, ti ascoltano, perché lo faceva anche Giulio, usciva con un watt e mezzo, mi pare. Giulio è sempre così, esce con un watt e mezzo, 2 watt, qua lo senti benissimo, cioè in tutto Sassari lo sento io, Giulio. Sì, ma infatti, se non ci sono disturbi, ti ascoltano tranquillamente, capito? Tonino, riprendi. Ehi, si chiama Cicite, c'è banda perché è banda cittadina. Yes, sai, like, penso che Gianni lo sai perché molti si rinnovano i saluti 7351. Cosa, Tonino? Non ho capito. Ho detto, penso che tu lo dovresti sapere, perché molti dicono 7351. I saluti sono, 7351 vuol dire saluto a tutti. Non è vero, non lo sai. E tu, Carlo, lo sai? No, negativo, adesso non, o non me lo ricordo, non lo so. Allora, 7351 sarebbe il 7 marzo 1951, gli Stati Uniti d'America fondò la Citizen Band. Si rinnova sempre quel ricordo di quando è stata fondata la banda cittadina. Sì, ma se tu guardi il gergo CB, vuol dire 7351, vuol dire salutone. Il gergo CB, sono Serragone, ha detto così, è sempre dichiarato così. Se non dici anche le cazzate, rinnovo sempre le cazzate. Però la verità è quella, se guardi proprio il libro delle CB, vero e proprio, oppure fatto io non lo che c'è fuori, cosa vuol dire 7351, oppure c'è chi sul vocabolario, oppure su internet, abbiamo un telefonino dove andiamo a telefonare. Io questo l'ho sempre saputo comunque, 7351, che se rinnova sempre la data del 7 marzo 1951, quando fondò la Citizen Band dell'America, tutto qua. Ok, ho detto una cazzata, dai, non era un coso interessante. No, è beh, storia quella lì, non è che io non lo sapevo, ti dico la verità, io sono umile, se non la so una cosa te la dico. Però io 7351 l'ho usato sempre come gergo CB per fare i saluti. Cappa, 188 e baci, 144 a letto, e io via, carico un figlio, sale luci. Avanti Carlo, Carlo è caduto. E prima si usava un bel gergo, e prima si parlava in gergo, adesso non si usa più, ma prima, io me lo ricordo, si usava la 50, cosa faccio QRT, questa greca, tutte queste cose qua si usavano prima, adesso non si usano più. E la grichellona la madre, grichellone, barra pesante, il camion, la BM la macchina, la parallela la sorella, e si usava tante cose, adesso non si usa più, la basso tu dici, c'è Puglione, vabbè, tutto sta, è come il sassarese, lo stesso, lo stanno sorpiando, va via che sparisce anche la lingua sassarese, che è molto simpatica invece, che molti l'apprezzano, il sassarese molto bello, vabbè, avanti Carlo, ci sei. E invece che fendeva, dicono, è più vendi. È proprio Zaragoza. l'avanza, la gubbecca, fa carità. Sono andato a prendere il telefono per cercare 7351. Bravo, vedi, tu sei una persona che mi piace. Guarda se te lo dice che il 7351 era il 7 marzo 1951 che l'America fondò la città di Manda. Sarebbe la stata cittadina. Diciamo posti dove cercarlo, forse su Wikipedia magari è più. Adesso leggo là, perché nell'altro non c'era, c'era scritto significato, CB, eccetera, però in effetti usato dai CB in varie parti del mondo, derivato dall'abbreviazione, il codice numerico, eccetera, eccetera. Sto guardando se c'è la data, ma neanche qua me lo dice. Forse magari bisogna fare una ricerca più approfondita e vedere se magari da qualche altra parte lo trovo. Aspetta un secondo che io mi devo spostare un attimo la baracchina, riprendo subito che faccio uscire i cani. Le vedi già? Sì, allora. Sì, io vabbè, non lo sapevo di questa, la verità. Non ci sono mai andato a fondo nella storia e quindi se conoscevo tutto il gergo, eccetera, eccetera, perché lo usavo anche prima, tanti anni fa. Però che volesse dire così, che avesse questa storia e provenisse da quello, non lo sapevo. Eh sì, infatti molti di qua stavo leggendo 73 auguri, 51 baci e poi 88 addirittura si usava. Sì, 88 di simpatia. Esatto. Poi c'era la barra agricola che era il trattore, barra pesante che era il camion, la BM che era la macchina, barra mobile. Insomma c'è tutto il gergo, se tu vai su internet c'è, ma di colori non l'ho mai letto, sinceramente non l'ho mai trovato. Ho trovato anche l'inno dei CB, la canzone. Già, che stavo chattando contemporaneamente, quindi ero un po' assente. E niente, oggi ero alle prese con quasi tutto il giorno con un computer nuovo e uno vecchio, mi ha preso tutta la giornata, meno male che già sono in ferie, sono a casa, capito? Ma non ti devi assillare, se è lento quello lì devi stare tutta la sera in chibi, l'avrei mollato così tanto già scarica da sopra. Infatti già l'ho mollato, poi praticamente se lo scolleghi dall'alimentatore si spegne, non ha più la batteria, capito? È partita completamente, però è quelle batterie interne, quindi devi smontarlo il computer, che lo so anche fare, però mi serve tutto a una mattina, prima mi devo ordinare la batteria, capito? E una volta che ce l'ho poi lo posso aprire e la posso sostituire, è abbastanza semplice. Tu lo sai di che tipo di batteria si tratta? Mi metti la ricerca, metti batteria per Asus 53 US, capito? Ti dà quella batteria là, c'è l'originale che costa quasi 100 euro, invece ci sono quelle compatibili che ti costano 25 euro, una cosa del genere. Bisogna se durano quelle. Io l'ho avuto l'Asus, scaldava un bel, c'era questo difetto qua, il mio scaldava moltissimo. Diciamo io ce l'ho un altro Asus che era di mia moglie e siccome lei se l'aveva preso nuovo e allora l'avevo messo a posto, avevo cambiato la scheda, la memoria interna SSD, gliel'avevo messa bella grossa per contenere più dati e poi anche la RAM era da 4 e gliel'ho fatta passare ad 8 e adesso è molto veloce, ma lo uso poco io il computer, te l'ho detto per cosa lo uso, capito? Una volta al mese lo accendo, poi per il resto faccio tutto col cellulare. Avanti Franco. Ah, mi sembrava Franco. Non è andato già mi voti tu, ciao Tony. Cosa è sempre a ria oggi? Ha detto mia memmi. Bubu, dai dai. Dai, mi sembravi Franco binario. Oh yeah, yeah, vabbè, dai. E cosa volevo dirti, Carlo? Scusa, se te lo chiedo, che tramacco fai? Io lavoro all'aeroporto di Alghero. Cioè, per gli aerei, con l'affare là? Io lavoro dentro e fuori, dai, ma più dentro che fuori. Due volte al mese solo fuori. Noi facciamo i controlli di sicurezza e poi gestiamo tutto quello che riguarda la sicurezza. Controllo del perimetro, controllo della sala di videosorveglianza, capito? tutte quelle cose là. Ho capito. Certo, gli uomini radar, come si chiamano, quelli lì giustamente, qui proprio a Fattini, Alghero, avranno ben poco da fare. Non è come agli invidi di Malpensa, di Nazze, Fiumicino, che là abbiamo un casino di traffico d'aereo ogni minuto, cioè ogni minuto ne manchi uno invece no, E qua il traffico è poco, soprattutto d'inverno si abbassa notevolmente, d'estate magari hanno più da fare perché già ne hanno da gestire d'estate, perché c'è pure l'aviazione generale, quindi tutta quella serie di voli privati che arrivano nel periodo estivo, che sia, diciamo, aggiungono a quelli dell'aviazione civile normale. Vabbè, non è mai a livelli di quegli aeroporti che ci vanno in cazzo, capito? Va bene, comunque va bene, anche un bel tramacco qui per te. E a dare pensione molto te ne manca. Buoni, almeno altri 7 anni. Già c'è vicino, dai, allora. Avanti già. Ancora neata da tribolare, che fai notturni anche le domeniche, tutto quanto. Già ce n'è lì da fare, dai. Ah già, ti dirò, io sono dall'anno scorso in pensione, da 1 ottobre. E ti dirò che a me il lavoro mi manca, la verità. A chi lo sa cosa farò a mangiare, un casino, per carità. Meglio lavorare. Purtroppo non mi sentivo ancora a essere in pensione, perlomeno dentro di me l'età di andare in pensione c'è l'età, ma io dentro di me non me la sento. Per me dovrei lavorare altri 2 o 3 anni, o 4 anni, o 5 anni. No, per me è dura, perché io sono la bellezza di 20 anni, anzi 25 anni che faccio il turno di lavoro, capito? Non sempre lì, ma anche prima faccio il turno di lavoro. Torno, lo lavo, lo pulisco, lo faccio e già ce n'è da fare. Poi mi metto anche a cucinare, a volte adesso sto male, non è che me ne viene voglia di stare in piedi, capito? Perché come sto in piedi mi fa subito male la gamba. Caro, ti ha sovrappopolato Gianni volontariamente. Ho detto che io di turni non ne posso più, sono quasi 25 anni che li faccio. Io notti no, però le domeniche festivi li facevo anch'io. A me capitava, quando ero irreperibile, capito? Nei giorni festivi, come il giorno San Nicola non si lavorava, invece a turno capitava che toccava anche a me. E l'ho sempre fatto. Che tirò che per me i giorni festivi non pagavano doppio, per me era una giornata come le altre, la verità. Eh sì, per me invece è un po' diverso, perché noi di feste ne lavoriamo parecchie. Ferragosto sei dentro, Natale sei dentro a Capodanno, e capito, quando c'avevo bambini piccoli sembra così, e ti vuoi passare il Natale, almeno il giorno di Natale a casa, eccetera, quindi chi aveva necessità con i figli, niente, là non guardano in faccia a nessuno, e quindi ti toccava il turno di lavoro, buonanotte, lo facevi e si festeggiava dopo. A me, io ripeto, l'azienda chiudeva una settimana, quel periodo di feste, una settimana, 10 giorni, a volte anche 2 settimane, allora, 240 operai. Io forse diverso il mio lavoro, che mi piaceva perché a me non mi comandava nessuno, capito? Io uscivo con la macchina e lavoravo in tutte le scuole superiori, manutenzione, impianti elettrici e idrici, e facevo tutti i paesi della provincia di Sassari. Per me era un gioco e mi piaceva quel lavoro, c'ero 25 anni, fate conto. Diciamo che così sei più autonomo, la reperibilità, però poi magari giorni di festa, eccetera, te ne stavi a casa anche la domenica, se non avevi interventi urgenti, capito? Anche perché scuole, tutta quella roba lì, periodo di Natale, tutto chiuso, per cui era più gestibile la cosa. Invece noi, maledizione, siamo sempre aperti. Lo so, come gli ospedali sono sempre indaffarati, tutto un casino, anche diciamo domenica non rispetta né festa né niente, quando succede casino c'è sempre casino. Avanti già. E tante categorie, polizia, carabinieri, sono tutti così. Anche mio socio era così, lo chiamavano a volte, finiva il turno, doveva sostituire il collega, doveva fare anche 24 ore su 24, adesso non è più così, ma quando c'era mio suocero si lavorava in questura. Altri tempi era già, adesso è tutto cambiato. Ma comunque niente, a me, io dopo che ho dato le dimissioni, la stavolta la segretaria mi ha detto, ci vuole rimanere a tenere fino a 70 anni, e se me lo dice adesso, ormai ha già fatto tutto quanto. Beh, pazienza, mi godo le fili da, dalla pensione, cioè. E così ho fatto, ma io non ho fatto fino al 10 di settembre. Cosa mi è rimasto di fili? Dice 20 giorni, vabbè, non ci rientro più, dai. Me ne faccio in fili fino al 30, poi sono già in pensione, e così ho fatto. Vabbè, comunque, la verità, non sono stato male, sono stato proprio bene, non mi comandava nessuno, perché io ero specializzato, avevo il tablet, sapevo già dove dovevo andare, a volte andavo solo, a volte in compagnia, con un idraulico, anche specializzato, quindi quando non c'era niente da fare elettrico, gli davo la mano a lui, quando non c'era da fare niente idraulico, lui dava la mano a me. E così ci volava la giornata, e me lo volava perché andava sempre un paese e l'altro, eccetera, mono, tiri, capito, insomma, giravi, fino a Porto Maggiore, e volanti di salto, e pilotava che ce l'avevamo, prima andava a Camuduso, poi erano sotto la squadra di Urbia. Andò bene, avanti Carlo. Vabbè dai, si fa quel che si può, comunque se te ne sei andato in pensione hai fatto bene, dai, c'hai più tempo libero e non ci pensi più, la mattina ti alzi con comodo, fai le tue cosettine, poi te ne esci. Tu se abiti lì, zona San Camillo, immagino che avrai qualche pezzo di terreno, se c'hai cani, già ne hai da fare, dai, la giornata già riesci a riempirla comunque. E non è come dici tu, perché talmente il tempo che ho io mi scogliono, nel senso che mi annoio, non è come dici tu, il terreno non è mio, insomma, poi in affitto, ripeto, però ho il pezzo di terreno, ce l'ho, metto, posso fare quello che voglio, ma non me ne frega niente. Quindi se io trovo un'altra casa in città è meglio, perché sembra che sono una benzina, la macchina lascia, ma io se devo fare la spesa devo uscire con la macchina, devo trovare un amico devo uscire in macchina, devo andare a fare che fesseria qualche ufficio e devo uscire in macchina, sempre in macchina, sono fuori dalla città, capito? E vuol dire molto anche quello, vabbè, pazienza. Adesso aspettiamo tutto quanto, quando sarà che finisco, chiudo la pratica delle incidenze che ho avuto, diciamo, poi proverò a cercare di meglio, qualcosa più stabile. E non so se il baracchino me lo ripiazzerò, vediamo dove vado a abitare, o mi comprerò una casetta, non lo so, vediamo. Vabbè, magari la radio riesce a piazzarla comunque, anche se secondo dove vai, magari che non è casa tua, metti l'antenna per la Citizen Band e non credo che ci siano problemi. E vabbè, io non voglio disturbare nessuno però, capito? A me interessa una casa con cortile, perché c'ho due cani piccoli e quindi ormai ce l'ho già 3 anni. E quindi non le do, non le abbandono, ce li ho e li voglio bene, sono affezionato bene, guarda che me ne tocca. E andrà bene, occhio, comunque fate sfizio, dai, 7.25, io mi devo preparare anche qualcosa da mangiare, perché non ce l'ho un'amica che viene a cucinare roba per me, assolutamente, se non li vozzo non li mangio. Vabbè, ok, dai, io vi saluto, mo proseguo, Gianni, stammi bene, ciao anche Carlo, mo proseguo, alle prossime, ciao ciao, cuore tango da parte mia. Ciao Tony, ciao, buona carica quando la fai, dai. E dai, già ne paghi qualcuna, te la fai venire a farti la cuoca. Già mi basta la tromba amica che ho, quindi una volta alla settimana mi va bene, perché se viene spesso appunto qualcuno ci lavora. Ciao, ciao Tony, mamma mia, avanti cazzo. Ciao Tonino, ci sentiamo alle prossime, buona serata e buona carica batteria. E anche io Gianni tra un po' mollo tutto e vado a preparare. Sì, vabbè, dimmi quando tu verrai. No, vabbè, già anche io fra un po' stacco, perché così preparo la roba al cane che la devo cucinare, e quando sale Elena col cane poi lo pulisco e gli do da mangiare, così siamo a posto e poi ce li diamo noi. Pappagallini ce li hai sempre? Sì, sempre ce li ho. E ne ho tre, Carlo. Adesso il piccolino, quello che va a 3 mesi, sta imparando a parlare, sta già dicendo ciao. E mia figlia qualche settimana fa mi ha mandato delle fotografie dietro casa sua, dove lì in Australia nei cespugli ci sono quelli, già te le giro qualche foto così li vedi, ce ne sono tanti pure, invece ce n'è sempre uno che va in un cespuglio e mangia questi fiori che ci sono, perché mangiano evidentemente cose dolci, magari delle nettare dei fiori, cose del genere. Sì, sì, sono nettarini, loro mangiano il nettare. Hanno quella lingua apposita, è tipo una raspa, non so se tu l'hai mai vista da vicino, praticamente con la lingua la entrano dentro il fiore, come può essere il colibrì, da, più o meno così. Esatto, sì, sì, sì, io quando ero andato a Carambin, che c'erano, ci davano il piatto col miele, ci venivano a decine sopra per bere questo latte col miele, capito? Sono molto golosi di quella roba là. Se quando faccio colazione, allora io li libero, no? Poi mi faccio il cappuccino, loro stanno liberi intanto e poi li pulisco le gabbie dopo che ho finito di mangiare, prima mangio io, poi lo do a loro. E loro, quando io faccio il cappuccino con la schiuma e cose, se non sto attento vengono e me lo fregano, capito? Si bevono il latte e quello che avanza nel tegamino dove scaldo il latte vanno dentro e se lo mangiano. E curiosi sono. E poi c'hai, oltre loro, c'hai anche il cane, e quindi adesso non lo stai portando tu neanche, no? No, lo sto portando la mia compagna, non ce la faccio. No, c'ho anche le calopsite, oltre quelli c'ho le calopsite che sono della mia compagna, le avevo comprate per lì e stanno sempre facendo figli, li fanno, li vendiamo, dopo un paio di giorni fanno di nuovo le uova, insomma stanno sempre facendo figli, sono delle catene di montaggio. Molto prolifici sono come uccelli quelli, sì sì, è vero. Niente, adesso io mi preparo a tirar fuori l'artiglieria dal frigorifero e a vedere cosa c'è. Mio figlio è venuto, ma cosa mangiamo stanotte? E ho detto, qualcosa mangiamo adesso, perché mia moglie è impegnata, sta facendo delle relazioni in camera, e allora gli ho detto che, visto che sono in ferie, già preparavo io. Paga, vai, dai. Io, non lo so, adesso vediamo se ci prendiamo una pizza, cosa facciamo, perché non ne ho molta voglia di cucinare stasera, non sono stato bene tutto il giorno, tutta la notte, ieri notte, tutta la mattina, stamattina, adesso un po' mi sta calmando il dolore, ma perché forse sto riposando e mi sta calmando, dai. E vabbè, Carlo, ti ho mandato quel messaggio, leggilo, non so se l'hai già letto, ok? Gianni, l'ho già letto, ma non ti mettere problemi, se non stai bene, magari lo vuoi lasciare anche di sera, eccetera, o un altro giorno, non ti mettere problemi. No, già va bene, se me lo fai quella cortesia, ok, già va bene domani, dai, andiamo. Ci sentiamo Carlo, dai, stammi bene, buona serata e tante cose belle, buona carica quando la fai. Saluto anche tutti gli ascoltoni e buona serata anche a voi. Va bene, alle prossime, ci sentiamo Gianni, ciao, buona serata. Ciao.